Ciao Lara, sono Matteo, sono uno studente di economia a Padova e guarda, te lo dico onestamente, sei bellissima, però in questo momento io non sto cercando una fidanzata, sto cercando un lavoro o uno stage. So che sei una bellissima eurodeputata, quindi non lo so, magari mi puoi aiutare.